La notte di Natale. Il buon augurio del presepe. Meditazioni tratte dal volume omonimo a cura di Paola Carelli. Edizioni Terra Santa. Allestimento di Mara Miceli. Con la viva voce del Santo Padre. Un uomo buono. Angelus, 22 dicembre 2013. In questa quarta domenica di Avvento, il Vangelo ci racconta i fatti che precedettero la nascita di Gesù e l'Evangelista Matteo li presenta dal punto di vista di San Giuseppe, il promesso sposo della Vergine Maria. Giuseppe e Maria vivevano a Nazaret, non abitavano ancora insieme perché il matrimonio non era ancora compiuto. In quel frattempo, Maria, dopo aver accolto l'annuncio dell'angelo, diviene incinta per opera dello Spirito Santo. Quando Giuseppe si accorge di questo fatto, ne rimane sconcertato. Il Vangelo non spiega quali fossero i suoi pensieri, ma ci dice l'essenziale. Egli cerca di fare la volontà di Dio ed è pronto alla rinuncia più radicale. Invece di difendersi e di far valere i propri diritti, Giuseppe sceglie una soluzione che per lui rappresenta un enorme sacrificio. E il Vangelo dice: poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Questa breve frase riassume un vero e proprio dramma interiore. Se pensiamo all'amore che Giuseppe aveva per Maria, ma anche in una tale circostanza Giuseppe intende fare la volontà di Dio e decide, sicuramente con gran dolore, di congedare Maria in segreto. Bisogna meditare su queste parole per capire quale sia stata la prova che Giuseppe ha dovuto sostenere nei giorni che hanno preceduto la nascita di Gesù. Una prova simile a quella del sacrificio di Abramo quando Dio gli chiese il figlio Isacco: rinunciare alla cosa più preziosa, alla persona più amata. Ma come nel caso di Abramo, il Signore interviene. Ha trovato la fede che cercava e apre una via diversa, una via di amore e di felicità. Giuseppe gli dice: non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Questo Vangelo ci mostra tutta la grandezza d'animo di San Giuseppe. Egli stava seguendo un buon progetto di vita, ma Dio riservava per lui un altro disegno, una missione più grande. Giuseppe era un uomo che dava sempre ascolto alla voce di Dio, profondamente sensibile al suo segreto volere, un uomo attento ai messaggi che gli giungevano dal profondo del cuore e dall'alto. Non si è ostinato a perseguire quel suo progetto di vita, non ha permesso che il rancore gli avvelenasse l'animo, ma è stato pronto a mettersi a disposizione della novità che in modo sconcertante gli veniva presentata. E così, era un uomo buono, non odiava e non ha permesso che il rancore le avvelenasse l'animo. Ma quante volte a noi l'odio, l'antipatia pure, il rancore ci avvelena l'anima. Questo fa male. Non permettere mai. Lui è un esempio di quello. E così Giuseppe è diventato ancora più libero e grande. Accettandosi secondo il disegno del Signore, Giuseppe trova pienamente se stesso, al di là di sé. Questa sua libertà di rinunciare a ciò che è suo, al possesso sulla propria esistenza, e questa sua piena disponibilità interiore alla volontà di Dio ci interpellano e ci mostrano la via. Atmosfera di casa. Omelia 1 gennaio 2019. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Stupirci. A questo siamo chiamati oggi, a conclusione dell'ottava di Natale. Con lo sguardo ancora posato sul bambino nato per noi, povero di tutto e ricco di amore. Stupore è l'atteggiamento da avere all'inizio dell'anno, perché la vita è un dono che ci dà la possibilità di ricominciare sempre, anche dal più basso. Ma oggi è anche il giorno in cui stupirsi davanti alla Madre di Dio. Dio è un piccolo bimbo in braccio a una donna che nutre il suo creatore. La statua che abbiamo davanti mostra la madre e il bambino così uniti da sembrare una cosa sola. È il mistero di oggi che desta uno stupore infinito. Dio si è legato all'umanità per sempre. Dio e l'uomo sempre insieme. Ecco la buona notizia di inizio anno. Dio non è un Signore distante che abita solitario i cieli, ma l'amore incarnato, nato come noi da una madre per essere fratello di ciascuno, per essere vicino. Il Dio della vicinanza sta sulle ginocchia di sua madre, che è anche nostra madre, e da là riversa sull'umiltà umanità una tenerezza nuova. E noi capiamo meglio l'amore divino, che è paterno e materno, come quello di una madre che non smette di credere nei figli e mai li abbandona. Il Dio con noi ci ama indipendentemente dai nostri sbagli, dai nostri peccati, da come facciamo andare il mondo. Dio crede nell'umanità dove si staglia prima e ineguagliabile la sua madre. All'inizio dell'anno chiediamo a lei la grazia dello stupore davanti al Dio delle sorprese. Rinnoviamo lo stupore delle origini, quando nacque in noi la fede. La Madre di Dio ci aiuta. La Madre che ha generato il Signore genera noi al Signore. È Madre e rigenera nei figli lo stupore della fede, perché la fede è un incontro, non è una religione. La vita senza stupore diventa grigia, abitudinaria. Così la fede. E anche la Chiesa ha bisogno di rinnovare lo stupore, di essere dimora del Dio vivente, sposa del Signore, madre che genera figli. Altrimenti rischia di assomigliare a un bel museo del passato, a Chiesa museo. La Madonna invece porta nella Chiesa l'atmosfera di casa, di una casa abitata dal Dio della novità. Avete ascoltato La notte di Natale, il buon augurio del presepe. Meditazioni tratte dal volume omonimo a cura di Paola Carelli, edizioni Terra Santa. Allestimento di Mara Miceli, con la viva voce del Santo Padre.